Il depositario infedele da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Vostra mercè, della memoria o figlie delle bestie cantai l'umili imprese, né poteam procurarmi una più grande fortuna di più grandi eroi le gesta. Con le stesse parole onde gli dèi parlano nel ciel, il lupo entro il mio libro sermoneggia col can che gli risponde. Nascon diversi eroi. L'uno è solenne e l'altro è pazzo, ma tra saggi e pazzi è follia che trionfa. Ancor io metto sulla scena e ne traggo un denso coro fior di bricconi, ingannatori astuti e prepotenti e ingrati bighelloni, sciocchi e striscioni e, se volessi, a mille i bugiardi di cui trabocca il mondo. Ogni uom puzza d'ipocrita, un sapiente l'ha detto, è ver? S'egli parlare intese della feccia del popolo, potrei crederlo un poco, e allora sarei minore nel sopportabil danno, ma che tutti grandi e piccini sian bugiardi a stento l'inghiotto. O forse un bugiardone Esopo è Omero un bugiardon? Nel dolce inganno dei sogni loro non risponde il bello stile dell'arte onde s'infiora il vero? E l'uno e l'altro, su tal libro, il falso non hanno scritto che dovrebbe eterno durar e ancor di più se non assurdo il dirlo? A tutti non è dato il dono di sì belle bugie, ma posson tutti frodar con l'arte di quel tal, sapete, la bella istoria? Orben statemi attenti. Pria di partir per i suoi lunghi viaggi, un mercante di Persia, un suo vicino, un cento confidò libbre di ferro. Partì, tornò, poi del suo ferro chiese al compare. «Che ferro?» egli rispose. «Ahimè, fratello, per un forellino del granaio, e ne ho fatta aspra rampogna ai miei servi, sen venne un picciol topo che rosicchiò tutto il tuo ferro, tutto». A questo gran miracolo il mercante resta di sasso. Tuttavia procura di credere e se ne va. Tre giorni dopo ei fa rapire al suo vicino il figlio. Lo nasconde ed il padre ad un gran banchetto invita. Ma costui piange e lo prega di piangere con lui dicendo: «Amico d'un caro figlio iva superbo e tutto il mio cuore era in lui. Mi fu rapito e più non è gioia sul mio tetto. O piangi, piangi, fratello, orribile sciagura». Disse il mercante: «Sul tramonto io vidi ieri un orrido gufo di ghermito il figlio tuo traendolo pel cielo d'un castellaccio fra le vecchie mura se lo portò». «Possibile?» interruppe il mesto padre. «E come può d'un gufo l'artiglio sollevar d'un corpo umano il grave pondo? In questo caso il bimbo strappato all'uccellaccio avvieria le penne». «Come avvenga non so, ma questo io dico, che l'ho veduto e con quest'occhi miei. Mi meraviglio che tu possa in dubbio mettere le mie parole. E chi ti prova che non possa rapir l'ugna del gufo d'un faccioletto il tenero corpo in un paese dove un topolino mangia da solo e non ne crepa un cento pesi di ferro?» Allor comprese il padre la velata morale e al mercante rese il ferro e dal sen strinse il fanciullo. Non altrimenti il lungo alterco avvenne fra due viaggiatori. Un di costoro, farbigator di iperboli, ogni cosa vedea per microscopio, il qual giganti fa comparir la pulce e moscerino. A sentirlo, l'Europa era percorsa da 100.000 spaventosi mostri che vanno di Libia e Senegallo per i deserti. «Udite», un di narrava, «ho fin veduto nei viaggi miei un cavolo maggior di questa casa». «Ed io», soggiunse l'altro, «una caldaia più grande anche del Duomo». «I fanfalucche!» «Fabbricata l'avea», l'altro conchiuse, «per far bollire i cavoli famosi di cui tu parli, amico». Entrambi furono spiritosi costor, l'uno col gufo e l'altro con la pentola. Se gonfia l'assurdo, è stoltezza opporre a sciocche ciarle sodi argomenti. Invece, ingrossa, gonfia anche tu la vuota ampolla e ridi. Fine della favola. Il depositario infedele. Questa registrazione è di dominio pubblico.